Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetto Sinistro, un mondo dentro il balloon, che oggi parla di BTB, il ritrovato festival del fumetto all'interno della festa della fioritura dei ciliegi in quel di Vignola. In realtà BTB, il suo festival, lo celebra sempre settembre-ottobre, ma l'ultima giornata del festival a Vignola, la giornata più importante dove scendono in campo banchetti, mostre, performance di fumetti, autori, interviste e quant'altro, è stata annullata al tempo a causa quell'alluvione che ha funestato la nostra regione. Quindi questa giornata viene ripresa in questo aprile, il 12 e il 13, in un sabato e domenica, dove si ritroveranno nella affollatissima festa che vede le tante persone accorrere nella bellissima cornice della fioritura dei ciliegi e vede anche la presenza così cospicua dei fumetti. E tra i tanti espositori e protagonisti ci sarà anche il CRAP, che avrà il suo stand, il suo banchetto a cui vi invitiamo, con tutta la sua produzione editoriale e anche la presentazione del suo fumetto workshop Volando Basso. Ma per avere più indicazioni di questo festival con Morena Moretti sentiamo Enzo Periello, che è il factotum, il responsabile di questa kermesse. Dopo lo schetto musicale, a loro la parola. Siamo con Enzo Periello, che è il direttore artistico di BTB Festival, che quest'anno si incontra con la festa della fioritura per la prima volta, e questo accadrà il 12-13 aprile a Vignola. Allora Enzo, com'è avvenuta questa alchimia? Ma è avvenuta perché abbiamo unito i fiori dei ciliegi, sempre una buttata, però in realtà è così. Bellissimo. Una delle feste più importanti del vignolese, quindi diciamo un po' del centro del nostro festival, è la festa dei ciliegi in fiore, che a Vignola è una cosa tradizionale da anni, perché i ciliegi sono una delle, al di là del rapporto con l'agricoltura e la natura, sono una delle icone di questa zona. E noi, siccome abbiamo avviato questo rapporto di collaborazione con Nip Hop, questa manifestazione di arte e cultura giapponesi, e allora abbiamo unito le due cose, i ciliegi in fiore del Giappone, che sono il simbolo, e abbiamo fatto questa vignolese nipponica, questa vignola nipponica, ed è stata un'idea, insomma, che ci è venuta e abbiamo voluto usare. Quindi è un'edizione, però, che non è l'edizione del 2025, è un'edizione in più che fate quest'anno. Quella tradizionale, come tutti gli anni, sarà fra la fine di settembre e metà ottobre. Questa è un'edizione speciale. A dir la verità, l'idea è nata perché a ottobre in Vignola ha piovuto, è stato quel periodo che poi in tutta l'Emilia, in tutto il nord, c'è stato l'allarme rosso per le piogge, quindi non abbiamo potuto fare le iniziative all'esterno che avevamo programmato. E allora avevamo pensato subito di farla in primavera. Da questo è nata l'idea di fare con questa grande festa vignolese della primavera, che fra l'altro accoglie moltissimi spettatori che vengono un po' da tutte le parti. Sono gli autobus che vengono dalla Germania a vedere questa festa della fioritura dei ciliegi vignolesi. E in occasione avete fatto anche un murales, che voi fate sempre, e lo avete, saranno degli artisti naturalmente a produrlo, proprio su questo tema. Quindi anche sì, lì troveremo il Giappone in qualche modo, fiori di ciliegio a tutto andare, insomma. Assolutamente sì. E poi comunque abbiamo invitato, ovviamente, che ormai sono nostri collaboratori, oltre a tutti i gruppi di cui poi diremo, abbiamo invitato anche Nip Hop, ovviamente. Poi si consideri che una delle cose belle di questa festa sono la sfilata dei carri fioriti, che ogni anno gli organizzatori della festa dei ciliegi, dei fiori, insomma, costruiscono e sfila per le vie della città. Ci piace molto questa idea di mettere la nostra Betty insieme. E infatti abbiamo poi il Betty Self, come gli autoproduttori, il bookshop, gli artisti, certo. Quindi comunque resta il cuore di Betty B come festival del fumetto. Sì, tutto quello che è all'esterno rimane come nelle tappe tradizionali. Ci sono tre mostre all'aperto, per esempio, quella di satira sul superuomo, quella del Venturi e quella dell'Accademia di Bologna, che erano le tre mostre che dovevamo fare all'aperto. Quelle al chiuso le abbiamo fatte come gli altri incontri anche. E quindi, però è stata un'occasione anche per presentare e avviare delle collaborazioni per noi molto molto molto interessanti. Tra le nuove collaborazioni ci sono il CRAP, che siamo noi, esatto, e la radio, dove avremo uno stand lì, quindi anch'io invito naturalmente tutti a partecipare. Poi i Nuvolisti e i Vignettisti per la Costituzione, anche loro sono per la prima volta con voi, Enzo? Sì, anche loro sono per la prima volta con noi e anche loro presentano uno dei loro libri, i Nuvolisti, uno dei loro libri, l'ultimo che hanno pubblicato, ma non presentiamo solo il libro, ovviamente presentiamo il libro Le Torri di Bologna, Gemelle Diverse, con tanti autori, ma la cosa che ci interessa veramente moltissimo è avviare questa collaborazione con CRAP, con Radio Fujiko, con i Nuvolisti, con gli autori per la Costituzione, perché abbiamo scoperto la grande ricchezza che hanno questi gruppi che avete, e forse dal mio punto di vista meritano molto più attenzione di quanto non ne hanno, forse perché non li conoscevo io personalmente, non sapevo che esisteva, ho sentito forse qualche libro dei Nuvolisti ma non le conoscevo, e conoscerle meglio, avviare questa collaborazione e presentarli al pubblico, perché sono realtà veramente ricche, piene di contenuti che, insomma, un festival come il nostro che... Sì, mi pare sia la vostra mission questa dell'intrecciare relazioni, no? Tra... Assolutamente, sia quello di intrecciare relazioni che quello di proporre cose a un pubblico sempre più vasto, speriamo, che non conosce tutte queste cose, ormai il fumetto non è che sia così popolare in Italia, tutto quello che è legato al fumetto, ma anche alle narrazioni con le immagini, viviamo nella narrazione con le immagini e per le immagini, ma non ci capiamo un tubo, ci becchiamo tutto quello che ci buttano addosso e non riusciamo a decodificare niente, insomma, questa è una delle è la nostra missione insieme a quella di costruire delle reti. Ciliegi rosa primavera, come le labbra del mio amore, i baci della prima sera ricordo ancora, innamorata l'aspettavo accarezzando i rami in fiore, poi dolcemente lo stringevo qui sul mio cuore. Sotto i ciliegi quel dì abbiam giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amore con il profumo dei fiori ci fece tanto sognare e sospirare. Ciliegi rosa tutti in fiore, l'estate il frutto vi darà, sarà così del nostro amore, chissà, chissà. Quindi abbiamo un sabato, una giornata intera e anche la domenica. In questo sabato e domenica ci saranno anche delle presentazioni. Veniamo alle presentazioni delle nuove uscite di fatto di sabato e poi di domenica. C'è questo album inedito di Alessandro Santi, un artista toscano, che fa un omaggio a Geppo, il famosissimo Geppo che quelli della mia età lo conoscono, i giovani un po' meno. Anzi, forse non lo conosce più nessuno, che è questo diavoletto, questo personaggio del fumetto che è un diavoletto, che ha caratterizzato, insomma, ha segnato anche le adolescenze di moltissimi della mia età. E anche questa è un'altra delle cose che ci piace molto, far vedere, raccontare, presentare qualcosa che non c'è più, ma che ha lasciato in qualche modo un segno dell'immagine del fumetto. Sì, per il settantesimo mi vedo, no? Sì, Geppo 70, perché 70 anni dalla sua... Sì, da quando è stato creato. E la cosa particolare di questo Geppo, che è diventato famoso per è un diavoletto buono che per sbaglio si trova all'inferno, quindi cerca di fare delle cose buone, ovviamente avversato da tutti i suoi soci e i suoi capi dell'inferno. Poi presentiamo questo libro di Walter Leoni, Cresci piano, pensa a me, una raccolta di striscette a fumetti che riprende un argomento tradizionale soprattutto del fumetto americano, che è quello di raccontare una famiglia. Adesso questo si è perso un po', ma negli anni 50, 40, 70 in America andavano moltissimo il mondo di E. Lois, per esempio, ma anche in Inghilterra. Questo raccontare le famiglie è stato uno dei capisaldi delle striscette. Si era perso un po' questa cosa. Walter Leoni, che è un autore veramente valido, presenta questo suo libro e ripropone questo racconto di una famiglia a striscette e fumetti. Poi abbiamo sempre sabato Le Torri Gemelle di Bologna, Gemelle Diverse, quella creata dai Nuvolisti, sul soggetto di Valerio Varese, con tutti gli autori importanti che fanno parte di questo gruppo, da Lido Contemori a Marzio Mariani, a Marilena Nardi, a Luca Salvagno, Toninelli, ce ne sono tantissimi, Giuliano, non sto qui a raccontarli tutti perché sennò prendo tutto il tempo della radio. Cosa interessante soprattutto per i giovani è che poi la sera di sabato alle ore 18:30 c'è questo spettacolo di una band milanese sulle anime e sui cartoni animati giapponesi, con le proiezioni di queste immagini e un po' ripercorre le ultime produzioni di anime in lingua originale, tra l'altro, quindi musica e video, che è proprio nella tradizione di BTB, di anime giapponesi. E domenica invece abbiamo le altre due presentazioni. Sì, presentiamo la mostra dei supereroi con il curatore Gian Lorenzo Ingrami, Margherita Allegri e Walter Leoni. Ci teniamo moltissimo a questa mostra. Sono 117 vignette di 37 autori di satira italiani, che è una delle cose standard che facciamo tutti gli anni su un tema che proponiamo noi. Ci sembra importante soprattutto perché il tema i supereroi è basato, ci sono anche le vignette Uomo Ragno, Batman, Superman, eccetera, ma la cosa più interessante sono i supereroi del nostro tempo, cioè quelle persone tipo, che so, Gino Strada, me ne viene per citarne uno. Diciamo i nostri supereroi, insomma. Sì, sono i nostri, quelli che hanno preso i destini del mondo sulle spalle e hanno cercato di fare qualcosa per gli altri. Ce ne sono, ecco perché ce ne sono, e noi vogliamo far vedere e capire che ce ne sono, ce ne vorrebbero di più. Sono i supereroi del nostro tempo, gente che fa qualcosa per gli altri, che sia addossa chissà perché, per quali motivi, i destini del mondo sulle spalle e ne paga le conseguenze. E poi abbiamo questo libro perché è un libro storico del fumetto italiano, di Otto Gabos, I Camminatori. E chiudiamo con questo bellissimo lavoro che è stato fatto da Crap e da collaborazione con Radio Fujiko, che è Volando Basso, questa raccolta di racconti a fumetti che è stato costruito, creato da tanti autori in un laboratorio. Un workshop di giovani, sì. Sì, che racconta un po' anche la vita di periferie fra le storie. Ecco. Leggo dalla presentazione: periferia, abitanti nativi, abitanti tanti migranti, storie di ieri e storie di oggi. Ci sembra una cosa veramente bella. Il fumetto in Italia, per tutto il popolo, popolarmente pop, questo limite è sempre stato considerato tradizionalmente un diversivo. Invece, soprattutto oggi, e questa è una delle dimostrazioni, è qualcosa che va al fondo della nostra società. All right, gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Your turn. Very good. Don't go ahead now. Good golly. Bring it around now. Ladies. Present to you Mr. Charlie Puth on keys. Na na na na. Rubrica Donne Fumetti, oggi abbiamo un'intervista con Paola Failla, che è una pittrice e insegnante, docente del liceo artistico, liceo selvatico di Padova. Buonasera Paola. Buonasera a tutti. Allora, tu sei una pittrice anche affermata, tra l'altro hai delle una collettiva, no? Mi dicevi prossimamente, sempre a Padova, e poi anche esponi in Giappone. Ultimamente, sì. Sì, allora la prossima sarà a settembre, vuoi dire il luogo se già... Beh, allora io sto facendo una serie di collettive in Giappone e in settembre ci sarà una collettiva a Padova sull'amore. Quindi è un tema molto interessante. Sì. Ma veniamo all'attività un po' collaterale, che è quella di insegnare anche in laboratorio speciale sui fumetti. Quindi questo ci interessava in particolarmente, Paola. Ci vuoi parlare di questo nuovo laboratorio per gli studenti, che è in orario extra, e quindi vuol dire che i vostri studenti che seguono tutti i vari corsi del liceo artistico classici, diciamo, si fermano per imparare fumetto, illustrazione. Esattamente, ci sono corsi di vario genere, ma che possono partire dal mosaico a stop motion, a laboratori di Blender e tra cui quelli di illustrazione di fumetto, e si svolgono una volta alla settimana, sono 3 ore per settimana, e dove i ragazzi appunto approfondiscono la tecnica. Allora, siccome, come sai, qui curiamo soprattutto questo aspetto un po' femminile, e mi dicevi che sono sempre più frequentati da ragazze, in effetti. Allora, questo sguardo un po' così, questa sensibilità che mi dicevi emerge in un mondo che sta andando sempre più verso appunto un numero crescente di autrici, illustratrici, donne. È il caso anche delle tue giovani apprendiste, diciamo studentesse? Sì, assolutamente sì, sono ragazze che non solo sono ragazze, diciamo, che sono femmine, ma producono anche proprio dei fumetti sul femminile. E c'è un bellissimo fumetto, ad esempio, sul caffè delle donne, questo tavolo circondato da donne che prendono il caffè e si raccontano delle storie. C'è un'altra studentessa che ha fatto un viaggio immaginario tra di lei con un'amica, e viaggiano in tutto il mondo per poi ritrovarsi nella loro città, diciamo, da cui sono partiti. c'è la storia di una ragazza molto giovane, tra l'altro, che dice che non fa tutto questo fumetto sul non riuscire a sentirsi. A parlare di sé. A parlare di sé, non tanto a comunicare, ma a sentirsi. Ascoltare se stessa. Dice, allora questo sì, tra l'altro, ecco, sono dei libri molto belli che queste studentesse, ripeto, perché la maggior parte sono effettivamente ragazze, sì, che, come dici, esprimono proprio la loro vita di ragazze che, sottolineavi, diventa sempre più legata a tematiche femminili, no? Anziché parlare dei classici avventure magari d'amore, oppure come se ci fosse uno scollamento col mondo maschile. Sì, non c'è più questa adolescenza così che si collega al desiderio così di comunicare anche con l'altra parte, diciamo, ma è un grande desiderio di conoscersi e di conoscere la parte femminile anche della vita della ragazze. Vita, sì, delle amiche. È interessante perché loro costruiscono questo fumetto dall'inizio con i bozzetti, i disegni, poi colorano e rilegano loro stesse questo piccolo libricino che può essere di qualche pagina, come qualcuno ne ha fatte anche di più, ecco. Ed è, cioè, proprio una costruzione dall'inizio alla fine. I prodotti sono davvero, davvero notevoli, di altissimo livello, e peraltro lo dico perché lo vogliamo ricordare, Paola, questi si possono anche vedere, così come anche delle piccole interviste alle autrici e alle illustratrici, che sono contenute appunto nella pagina Instagram del Liceo Selvatico Official. Quindi invitiamo tutti davvero a scoprire questo mondo al femminile. Ma un'ultima considerazione, ma allora molte di loro esprimono anche il desiderio, no, poi in futuro di diventare magari illustratrici o vivere in questo mondo del fumetto, lavorare, sì, in questo mondo. Quindi possiamo prevedere davvero una trasformazione di sensibilità, di temi? Assolutamente sì, i percorsi sono diversi, ma tutti mirano un po' ad approfondire le tecniche che hanno affrontato in questi corsi, e diciamo che la più amata è l'Accademia di Belle Arti, e con tutte le varie sfaccettature, i vari corsi, ma c'è anche chi si rivolge poi a scuole specialistiche come la Comics, eccetera. Quindi ci interessa molto, come dicevi ancora, sottolineo l'ultima cosa, a volte i vostri studenti e le vostre studentesse non sono neanche come una volta chi frequentava il liceo artistico, proveniente da classi agiate o privilegiate, no? Ma magari veramente spinti dalla passione. E quindi questo ci sembra anche un segno dei tempi, il perseguire la propria passione, la vena artistica, e soprattutto anche al femminile. Quindi grazie Paola Fail e il Liceo Selvatico Official per le donne e fumetti di Donne con lo Zaino. Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run? Oh, I said you better run. Finally the change.